Poi ci sono invece dei tagli di imposte, ce n'è uno una tantum che riguarda il 2007, che è stato fatto in maniera molto semplice: si prendono i più poveri contribuenti italiani, che sono quelli che non alla fine hanno un saldo di imposta zero, e gli si dà un bonus. Il bonus è di 150 euro a persona. Poi c'è appunto nel pacchetto casa un abbattimento dell'ICI che sarà tale da rendere uniforme l'esenzione dell'ICI, che oggi è più alta per i piccoli comuni che non per i grandi. C'è l'agevolazione sugli affitti e si sta studiando di vedere, oltre appunto a questa agevolazione che è un credito imposta in base al reddito, di darne una anche ai giovanissimi che escono di casa. Se ce la facciamo con i soldi ci sarà, ma i conti li stiamo ancora facendo. E infine su questo, sulla questione casa, appunto è stato già detto, una cosa importante è questa operazione social housing che sarà fatta dal Demanio essenzialmente gratis, no? Cioè conferendo immobili, c'è un meccanismo che poi col settore privato interagendo può fare 8.000 alloggi l'anno, quindi il programma è farne 80.000 in 10 anni, poi il modulo si potrà allargare.